finisce lì, tutto, e non se ne parla più. Poi purtroppo da quando è successo il corso del Covid, è entrata molte persone e cominciate a fare diciamo. Io quando c'era il Covid non c'ero ancora in radio. Io ho deciso di fare la musica già una notte, invece di nuovo ho preso la passione, mi ho preso la radio e sono entrato. Ho mandato un video che ha fatto mia moglie, che l'ha mandato alle amiche o non lo so a chi del tetto. L'ho visto, è uscita la tua foto nel computer, dove mi è arrivato il messaggio. Aspetta, Ha avuto la grazia di sopra il traliccio. Sì, io aspettavo di averla messa per terra, invece no, ce l'hai tutto sul tetto. No, tutto sul tetto. Cavolo, hai una bella braccia grande come ce l'ho io, no? Hai visto cosa c'è? Sì. Oh, va bene. Ah, è un bel terrazzo c'era. Io non so se c'è un terrazzo grande. Non vedo. Bello il traliccio, eh? Bello. Quello è quello che usiamo per i concerti. Lo usiamo per i concerti. Ne sono avvantate due. Ci sono quei due, erano due pezzi da 3 metri triangolari che non osavamo più. E ci ho buttato un'altra antenna. Ecco. Cos'è quella piccola, una X30? Sì, un X30 per il PRM, sì. Sì. Ho visto. È un po' più corta della mia, io ce l'ho 200. Sì, ma va bene, poi ripeto, per il ricevitore oggi ho tolto la discona addirittura, perché l'ho comprata nuova a dicembre la discona della LEM, però è soglia, io non ne do più. E ripeto, ho provato la Firenze, questa Firenze 2, è assurda. La banda aerea 920, 910, quella di Gabo. Gabo, ma sai cosa avrei fatto? Visto che c'è il traliccio, sì. Con l'X30 ce l'avrei messa sopra il traliccio, signor. Entra sopra il traliccio l'X30. No, non è. Ah, è un traliccio c'è qua. Sì, no, perché io sto dicendo l'altro traliccio dall'altra parte. Poi ho paura che mi vada a far danno, capito? Ho paura che mi vada a far danno a mettere le antenne sullo stesso traliccio, paura mi vada a far danno. Vabbè, dai, che si tratta, non pesa, non è a peso. No, ma non per il peso, no. Quel traliccio lì tiene 500 kg al metro, sono 6 metri, fatti giù. No, non è per il peso, perché di lì adesso come faccio questa cosa per la direttiva, ne metto altri 6 metri a fianco e metto la direttiva o al centro tetto, perché quell'antenna che vedi che c'è al centro tetto con lo stativo, diciamo con quel lavoro dei tubi, quella l'ho tolta e non ce l'ho più, ce l'ho in garage, perché di quelle ho sia la mezz'onda che la 5/8 e ce l'ho in garage, l'ho tolta. E al centro tetto di lì mi prendo e oggi lo stavo guardando, ci stanno 6 metri di traliccio 40x40, quello quadrato, sopra di metterò la direttiva. Ecco, sì. Tu sei un po' distante anche dalla strada, no? No, io sono attaccato alla strada. Ahia, allora, ti passa le liste di avere. Ehi, pazienza, che cosa vuoi ti dica? La nasconderò, la metterò dietro e vabbè, non c'è problema. Capita, io ho fatto tutti i loro il terrazzo me lo tengo per il salto, le società vuoi, anche equipaggio, un bel più buco, stato un altro equipaggio. Non lo voglio occupare di hotel, mi basta le vicine di gioco. Sì, vabbè, oh, vabbè, chi c'ha? La di che mi dirà, il giorno che mi rompo le scatole, miglio, ti pongo un tubo e pongo la reazione e diciamo questa long drive, quella X30, passami, in un tubo. Prima ce l'avevo a terra quel traliccio, mi seguo, a me magari va, mi è giunta la tirata di Zebedu ed è sopra, però non è che mi interessi più di tanto la dignità di Zebedu. Poco tutto è andato un tubo e ciccia. Cazzo, quello sì. No, io non metto, ho preso quel tubo da 6 metri, ho preso e ho lasciato solo quello. E poi 6 metri non ci sono perché c'è il pezzo delle tappe, tappe autocostruite da me, che ve le ho fatte vedere qui. Mozzetti di quelli di punteggio, gli ho saldato un bel pezzo di tubo, gli ho saldato e ce l'ho messo dentro il muro, tutto murato, e una bomba. Positivo, vanno bene anche, cioè col tubo va bene, beh, tutti quanti non è che abbiano il posto dove poterlo mettere, ma anche io al circo non ce l'avevo con il tubo, e tu fai il dago e esci ove, fra, io l'ho fatto perché c'è il posto, altrimenti anche io sarei stato così. Certo, una bella, no, so che tu come ci avevi il circo, lì, certo che era micidiale, poi la tenda era molto in alto anche, ma lì uscivi bene. A me la giovane di chi si la gatta, mi dice vai. Sto guardando una cosa qua, ragazzi, non riesco a trovarla. E allora ho la gatta micidiale. Cosa? Avevo il mio terrazzo, avevo qua il posto e non me lo trovo più. Positivo. Cioè, vabbè, l'ha mandato il tipo che mi sta mandando quell'affare, mi ha mandato la foto del suo petto, adesso te la mando, a me adesso basta scatenando. Quello che mi sta mandando quell'affare che ti ho mandato in foto. Cavolo, tutti più mancanti. Mancanti? Scusa, è anche in alto. È in un palazzo 12 piani. Scusa, è affari del monte. Esatto, è affari del monte. Quello è forte. È un fatto scatenato. La foto della sua stazione. Sì, bella veramente. La foto della stazione è arrivata a te. Della tua? No, di questo qua. Non l'ho vista, aspetta che vedo. Cavolo, è grandetto il signore. Questa roba vintage, a parte gli stili di livello. Allora questo qua la madre ha 93 anni ed è radioamatore, è un modulo ancora, cioè è radioamatore la madre, 93 anni, l'hanno intervistata anche al Rai 1. Veramente bello. Questo è quello che c'è la teglia, quella di Venti. Sì, è lui, è quello che stava andando quell'affare a me. Ecco, sì. sono una famiglia di notai. Questa camera è fatta male, se mi gira per la radio. Beh, se non si la butti vai di la gamma, io me la posso fare. Sono una famiglia di notai. E te la paghiamo noi. Esatto. Oh, Giulia. Vabbè, non che vi saranno i due ferrafa, non che vi saranno i disegnere i quattro tabulami. Qua c'è il favore, qua c'è. È roba di valore anche. Sì, però è roba che vale ancora, caspita, vita è quella linea drink. Sì, è stato bene, guarda che questa gente qua, a volte tutti più anziani, escono sempre con la radio su Twitch, a volte, che sono meglio, che la radio Twitch sono migliori che sono migliori. Sì, io quando ascolto tutti quanti sono con le radio vecchie, con le nuove si trovano male perché menù sotto menù, queste cose qua, e tutti escono con le radio vecchie, Icom, Yaesu, Kingwood, e c'è uno la mattina che esce con un 440 ed è una scheggia, la mia radio è questa, con il 440. Sì, ma io un giorno ho parlato con uno della zona di Pavia, il Padova di Vini, di Bavigliano. Questo signore aveva una radio che se l'ha costruita lui da zero, e stava parlando con quella lì, davvero. Ed era, Pavia attaccata in Carradio, Pavia un tardi a T3, Pavia. Ma i scia erano una meraviglia. Il vero regolatore è quello, è perché cosa comprano? Antenne, non ne comprano antenne, no, quelle se le costruiscono, tu li senti sempre, sto scendo con un'antenna a filare, sto scendo con un'antenna, un dipolo fatto, con un valo, un dipolo fatto con un valo, cioè roba fatta da loro, e vedi come arrivano. Senti, quelli che usano i lineari, ma senti anche quelli che escono solo di radio, a me mi arrivano qua, io li copio anche 9.10, 9.20, alcuni 9.30, e sono anziani, una diva è una rissa, perché per esempio sappata in gnali, però... Sì, è vero, magari da più di fare, purtroppo... fanno bene perché una tenda specialmente a radio materiale HS sono una parte di studio e fanno bene che se lo facciano e prendono il bello non andare a fare figli di antenne che c'è i studi anche chi non le ha se li compra perché non li sa fare magari le antenne e è costretto a comprarsi oppure sono la marca di studio, così l'ho vista, me la volevo prendere, non prendo una verticale, un giorno, agenti di frutto e agenti di trovare a capo finale, come la settimana. No, non si possono toccare, quelle antenne lì. L'unica cosa sono le filari. Io fra me l'ho costruita l'antenna filare, mi ho fatto il balun, gli ho fatto il choc sotto, te l'ho detto, un'antenna è una filare di 30 metri, vabbè io c'ho il posto, l'ho fatta. Però parte da terra, sale sul traliccio dove c'è l'aggressivo e va di nuovo a terra, mi segui. Io ascolto con quella e capita, e riceve. Sì, ma è così, purtroppo. A me non mi conviene, né a me né a chi ci pigli, comprare un'antenna del genere. Lo lascia perdere, non per provarne una usata, perché se uno se la sta vendendo vuol dire che non serve più. No vabbè, io non ho usata, ce l'ho uno che la vende, che la sta vendendo, è una multibanda, un'antenna che poi è trattata benissimo, è stata montata. smontata ed è trattata benissimo, nuova nuova. E infatti un domani, quando avrò coso, me la prenderò quarantennale, gliela prenderò io. Però è anche vero che la prendi per gusto, perché poi alla fine non la puoi usare, perché non, per trasmettere non puoi trasmettere. Però fa da 0,30, fa da 0,30, quindi la puoi usare anche sulla 27, non devi stare a usare il commutatore, mi segui? Sì, quello è. E poi ti dico una cosa, con questa che ci abbiamo noi, io ce l'ho matto con tutto, secondo segnali, noi non li ascoltiamo con quella. Invece con quella HF che usano loro, loro la sentono, e anche con segnaloni. Io ti ripeto, fra amico, qualche giorno ti faccio venire e ti faccio vedere cosa ricevo io con quel pezzo di filo, perché poi me ne ho preso uno originale, c'ho anche quello, però è smontato adesso, perché devo trovargli bene un ancoraggio, perché quello lì è un pochino delicato in confronto a quella che ho fatto io, quindi è smontato, lo devo sistemare bene. Perché qua è proprio filare, devo lavorare e filare, invece io l'ho fatto a 30 metri, quello ha un cavo di 42 metri, quello che ho fatto io sono riuscito ad accordarla a 30 metri, l'ha fatta invertita. Ma ti faccio vedere cosa tutto ricevo con questo pezzo di filo, ma è un cavo 3x2,5 quello che ho io, insomma. Però è efficiente, molto efficiente, si vede disegnare il villaggio di buoni mani in campo. Io metto a volte questa radio, perché io per ricevere uso l'ICOM, non per fare ascolto, perché non ce n'è, troppo bello per fare ascolto questa cosa qua. E ricevo tutto, poi si mette per verificatore antenna, prende un po' di roba, ma i bisogni molti da sotto terra. Sì, me lo immagino, purtroppo noi piccoli, noi piccoli mortali, ci abbiamo avuto la pazienza, però tre cose, l'abbiamo pigliato, però così no. Sì, ma me lo immagino con quella che hai fatto, se gli hai fatto il palo tutto quanto, è micidiale, non è come quella finale che c'avevo io, senza palmo, senza niente, quando l'ho aperta non c'era niente dentro. No, io gli ho fatto un malo 9-1, mi hanno dato un amico qua della 27, mi ha regalato un toroide, un 0,30, quelli admin, i 202, che è fatto apposta per fare questi antenne filari o di puli. L'ho fatto 9-1, mi sono messo una sera qua, tranquillo, mi ho fatto tutte le spirali, me l'ho fatto bene, sembra, ma tranquillo, una cosa fatta da me che mi dà soddisfazioni e solo quello mi ripaga, mi segue. Poi mi sto costruendo una piccola antenna, una piccola direttivetta per ascoltare le V con quelle antenne, con quelle longe periodiche che vengono da Bricoman. Capo, sì. Vabbè. Io avevo la questione da Bricoman lì, tutte per radiali, però voglio mettere così la luce bassa, non è buono. Grazie per la preghiera, che mi fa la messa di luce. Cosa c'è? Quelli resina tuffa? No, negativi, non mi so. E allora frase gassi vissi, E poi quei tubicini lì con 4 o 5 euro li prendi? Sì, non costano tanto, li ho già visti. Infatti ancora no, già li ammarciti un pochettino, perché quest'anno d'estate l'ho fatta giù l'antenna, l'ho tutta smontata, l'ho pulita, siccome la mia è controciclizzata l'antenna, e poi mi sono accorto che non era più controciclizzata. E cosa era? Si era staccato contro la lente, allora l'ho buttato passata, tutta rifatta nuova, l'ho bello saldato, allisciato e ce l'ho avuta con il nuovo vento. E adesso è tornata come prima, come quando era nuova. È positivo. Se vuoi io ho una base di matova 5.000, se la vuoi te la do. Però no, cosa me ne faccio? Quella c'è una matova turbo, c'è la più radiale. No, quelle no. Mi pare la cellata a Claudio, io una bellissima. Di base? Sì, di quella che dove c'era la spirale, sotto la base dei radiali. Ascolta Fra, ma tu ti ricordi più o meno quanti sono le sfide, diciamo, gli sfilli che c'ha e che misure hanno? Non te lo ricordi, no? No, negativo, e quello no, a parte non li ho mai contati, quindi non mi sono mai messo, non ho preso mai la pena di controllarla, no? Forse come sarebbe bello farla questa qua, invece io la volevo fare e provarla. Farli tutti gli sfili a questa base di Mantova 5, perché alla base con la molla è il primo tubo, e farglielo tutto in rame, prendere le sezioni e fare gli sfili tutti quanti fatti in rame, secondo me è assurda. Ecco, guarda, io mi sembra che c'ho una molla per la Mantova 5 o per la Mantova 1, non mi ricordo, c'ho una molla c'è. No, anche questa qua la molla, è completa, appunto completa. Mi mancano ho anche i radiali e mi mancano solo gli sfili, perché era un'antenna spezzata e cosa, però visto che il cortocircuito ancora, quindi è a posto. Però mi mancano le lunghezze di tutti gli sfili, mi segui di quanti sfili ha e le lunghezze. Ti dico la verità, non ho mai provato a cercare in internet, però secondo me se c'è qualche link c'è che lo dice. Ecco, ma della Mantova 5 stai parlando? Sì, positivo. Ma riguardo se c'ho qualche radiale ancora, però mi sembra di no. Ah no, a Graziano li avevo dati in sassa. Ah, no, io ce li ho i cosi. Però voglio vedere la lunghezza degli stili, mi segui? La lunghezza degli stili. Perché lì è cortocircuitata, l'ho provata ed è a posto. Se gli metti gli stili normali con lo stesso registro e la fai, che se ne diventa originale. E certo, se ne fai gli stili, sì. Poi alla Mantova gli puoi fare anche l'alluminio, se non ti va di mettere più resina. Sì, infatti, bisogna sapere le misure, ma io me le ricordo perché io ce l'avevo la Mantova 5. Cos'era? La 5? Sì, la 5 la volevo io al circo. Però non me le ricordo, non me lo ricordo. Però me la voglio fare, mi segui, perché mi piace fare le comparazioni, anche se la metto per un giorno e faccio le prove il giorno dopo l'attacco, però è una cosa bella sapere e provare. Certo che è sempre bello provare, quindi si fa va, se non va, pazienza, non è quello il problema. Ma dovrebbe andare intanto, l'alluminio e l'acero, anzi, lo puoi trovare adesso magari un po' più grosso e ciccia. Se la coccia viene lì l'alluminio, diciamo, di stili della Grazioli, puni di stili. Infatti, intanto la carica è sul nuovo, la carica. Poi quella lì, una volta che c'è quella, e poi devi mettere solo l'alluminio e basta, tubi e boom. Sì, esatto, è tutto tubi. Già sono belle cose da fare. Stavo provando a costruirmi una canna da pesca di 5 metri, di 5 metri 50 per la VHF. Gli ho fatto anche un basamento per i radiali d'alluminio, però c'è da vederla bene questa cosa qua. Ce l'ho aperta fuori sotto la tettoia e la sto facendo piano piano. Dai, mi sto facendo qualcosina per passare il tempo quando ho 10 minuti. Ecco, E vabbè, una canola fresca vuole fatta bene, vuole riportata bene, perché il vento se l'aspetta, io ho avuto e me l'ha aspettata i due pizzi, i tre pizzi me l'ha aspettata. No, ma io ti ripeto, Fra, non è una cosa che devo lasciare fissa, a me lasciare fisso non mi interessa, io è una cosa che devo provare un giorno, vedere com'è, fare la comparazione del segnale tra una e l'altra, è cavannira, non è chi mi limita a disabilitare. Allora sì, ma se per lasciare la fissa, lascia aperta, è meglio... Meglio niente per quella lì, se no è meglio filare. Esatto. No, vabbè, non mi interessa, fissa, non mi interessa. Anche perché non vendono. Infatti. Va bene, Franco, va bene. Io adesso vado a nanna. Così. Facciamo un po' di carica. Cavolo, come le ha fatto? Fatti mezzanotte 20. Vergine Maria. E come passa l'ora? Passa sì l'ora. Agganciato, ti sei? No, negativo, è spento. Ce l'ho spento. No, col dito che stavo giocando è aumentata la amplificazione della radio, adesso sto provato a commettere. Aspetta, Giunito, ma la radio va a me la zadda, non è cesi di due. No, però, mi stavo giocando con il dito con la cosa, con un pulito, e la giovane è zadda. Infatti, in effetti, così lo smitter, l'ago si muove di più. Beh sì, e beh, ha una radio anche più potente, Saturneco è assurdo. Saturneco è bello. Ecco, è solo basso di mitighe, perché quello del microfono ce l'ho a 5. E a 5 ce l'ho anche quello della radio. Beh, se lo sollevo, vedi, tutti e due, guarda, adesso sono al massimo tutti e due. Sì. No, vabbè, come di prima era una vera bella una telefonata che era chiara, era bella. Con quanti watt sto scendo? 7 watt? No, 10 watt. Prova a portarlo a 7 a vedere, Fra. Vediamo così, ecco qua. Così sono 7. 7 volte, ecco qua. A me bisogna radio baita, ma guarda. Ecco, io abbassato. Così sono cresce la bassa. Sì. Adesso sono sì. Sono. Vedo che sta tirando lo stesso. E così sono 4 e cazzo. No, 4 e qualcosa in più. A 7 watt quella radio, 7 watt. A me mi hanno detto che quelle radio lì devono girare a 7 watt e il tanner, non c'è per nessuno. Me lo immagino. Aspetta, ok, così sono a 7. Io non ce l'avevo ancora, non avevo il tanner, non ce l'avevo ancora questa radio. Vedrai dopo che metti il tanner. E chi ha da ridere, Cudi? Io avevo il punto al circolo e avevo il tanner per 3 supersigli. Quando a me mi riconoscevano perché questa radio, perché era quel tanner era modificato, c'era una modifica, e quando schiacciavo la porta ti faceva spam, spam, spam. Ecco. Vedi a vedere quanto te ne dà il tanner, a vedere secondo quando te ne dà uno me lo prende. Sì, se mi risponde volentieri, Fra, non è un problema. Te lo faccio sapere subito. Secondo quanto è me lo prendo, certo se non è 100 euro non lo dico. No, assolutamente no. Assolutamente no. Non nessuno vuole la roba a regalo, però sento vero anche una cosa spropositata. Ma te, perché ne ho visto tanti di Facebook, così, vendendo, sempre di quella, come hai visto per dire tu, e sento io, non ho manco faccione. No, ma da continente, se cerchi da continente ti rimandano 80 euro, 70, 80 euro spediti, sono a posto, dice ma non sono gli originali, non è vero perché il tanner lo riconosci, è l'originale, dice ma sono malomessi, ma da chi l'ha detto? Non è che per vendere la roba qua devono sollevare il prezzo, se io posso risparmiare 20 euro lo risparmio, perché devo regalarle? Ma certo, certo, è perché chi mica te la regalano. Ma chiedi, magari la bisogna 70, no? La voi mi devono quindi l'attento, senza averli fatto nulla, ma guadagnasi 30 euro, ma ci sta, se lo vuoi fare ci sta, se riesci lo fai, però se a me, per esempio, a me mi avevano proposto qua dei ricevitori, delle cose, e ho detto guarda mica questo ricevitore così è caro, no, noi lo vogliamo così perché va bello così. E dice ma qua non ci sono soldi per comprarlo, e vabbè, era 300 euro mi pare che tu ricevi fuori, no, che ha giubilato, ha detto vabbè, ma ti voglio dire una cosa, me l'ho preso 480 euro, l'ho pagato lì con l'ICR 7000, quindi da continente, quindi qual è il problema? Non era il problema del sud, era il problema che per fare un burro mi bigli, ho preso, scusando la parola. Come io che una volta stavo dando un 2531, poi alla fine l'ho venduto, e lo stavo dando 80 euro e mi ha detto mi raggiungo qui da lì e là, che tu con 40 euro la c'è fatta, cerca, trovo 40 euro e non me la fatti nulla. Poi mi ha detto di te, allora dice me lo prendo da internet, se pigliato da internet ora me la fatta nulla. A voi di un faccichetto, mi ne giusto, dice, avvirai a cura di su di lui, hai tu, non vi raggio, ma ce l'aveva avuto uno per arrivare uno a te, non l'hai pigliato dalla prima, hai detto, se l'hai già venduto, ho fatto io uno a te. Sì, beh, allora così bisogna dire, i rubani, quindi non fa rubare ancora, finta diviso, grazie a Dio, compreso, quindi no, affarizi, poi la roba che c'hai tu, fra non serve, la roba di loro è tutta roba buona, ma paga i vetri munica, la sapigli, si compra bene anche su internet, no, non c'è problema. Io qua, la verità, ho comprato le radio, per esempio questo che senti adesso l'ho preso da Claudio da Sparviero, è un'ottima radio, io quando devo prendere qualche HF qualcosa, quello che è, io prima faccio uno scudo a Claudio, se ha qualcosa, se diceva non c'ho niente, allora mi arrangio, perché da altra gente io qua non ho ne avviso di cotte di frutte di queste radio, quindi non c'è da dire niente. Anche a lui magari saranno capitati dei pacchi, purtroppo usi, però io questa ho pesato, l'ho detto era nuova, e così è tranquilla. Quelli come l'ho preso a Sidini e questo ricevitore l'ho preso in continente e io sono a posto. Sì, no, anche io da Claudio ho preso poi quello me l'ho venduto e poi mi sono tenuto dell'EC60 che me l'ha da Claudio, nuovo, e ho preso quella, però ti dico che mi ha trattato sempre bene, anche a me da anni e anni. E niente, a prendere la gente sembra che lui se compri da loro è caro, non è caro. Se comprano loro da te, lo vogliono gratis, se no non funziona così. A chi è una divisione 80? Questo lo sta volando. Sta tornando a 400 euro. La maledizione di tutti, però oggi ci vale 300 euro, ma 300. E poi nessuno lo lascino, lo tengo io, e io ci tengo, e ce l'ho io sempre qua, meglio che si muore con me, ma non lo regalo. Vabbè, proprio tu c'hai tutta la linea, se non sbaglio, del 680. No, non c'ho tutta la linea, c'ho solo la colonnina, l'STP 480-430, c'ho l'MC60. Poi il resto, l'altro non ce l'ho, lo stavo cercando, l'accordatore, stavo cercando e l'alimentatore, qui non l'ho già avuto in lui. Le gaggia utili, tutti tanta roba, sta tanta miccia, non si abbiamo usato. Mai non lo vendere fra, mai fra non lo vendere, che radio usi poi non le trovi più. Qua non fare quello sbaglio, perché sai che l'ho usato tu da un po' di anni, ce l'hai tu, quindi sei trattato bene, non lo vendere, non fare quello sbaglio. No, ormai non mi interessa di darlo. L'unico problema che c'è è questo radio, che ne hai visto, non c'è il QFO per girare i canali veloci. Quello lì slitta un po'. Ma quello, cambi quel QFO e il numero al radio. Sì, slitta un po' la frizione, ma diciamo la ma sono radio di 40 anni, cioè ma lo sapevo cosa per qualcuno, cosa, se no 40 ma 30 zincuvi anni, cosa pretendi? Quelle radio lì sono il top del top ancora, cioè sono radio che hanno fatto la guerra del Golfo, lo usavo per fare la guerra del Golfo, radio che non moriranno mai, una modulazione come quelli non la trovi da nessuna parte. Lui, lasciate, io non ne avrei dato. Quando io sono andato a prendere questo qua, da Claudio, io sono andato a prendere il 440, mi segui. E infatti mi ha dato consiglio, ha detto guarda, non prendere il 440, non lo prende. Guarda, prendi questo qua, che è una radio buona, cioè sì, è un digitale, quello che vuoi, però è un'altra radio, aveva ragione. Però c'è anche da dire che il 440, il 27 e il 440, non c'è niente da fare, puoi prendere, puoi dire quello che vuoi, puoi sbatterti al muro, fare discorsi. Il 440 è un rimorchiatore, quindi io sono andato a prendere quello, però mi ha dato questo qua, mi accontento, è buono, ha una buona modulazione, è un digitale, e mandare usi. Sì, ce l'ha preso io, e mi si è fatto tutti, si è fatto. Lo volevo aggiustare, poi mi costava un botto, ha aggiunto una nomina tutti i mesi, poi un amico, adesso dice, che poi lo conosciamo tutta la Fabrizio, e un amico dice se ne andavo, però la radio era buona, aveva solo quel problema lì, è venuto, mi ha dato 200 euro e se l'ha portato via. Poi ce l'aveva venduto, non so. Però la radio era bellissima, quella radio, era un treno lì, poi aveva l'accordatore automatico, tutto quanto va via, era vicino, a me piaceva molto, poi potevo metterlo su quel C27, potevo mettere cose che non potevo fare su quello, e mi piaceva, però alla fine si è atterrato, hai sulla faseccia. E allora me lo vendo tutto così. È positivo, così sì, 440 è un trattore, non c'è niente da fare. Oh, queste radio che ho io sono tutte quante state da Bianconi, io l'ICOM, questo qua, l'ICR, quello che è al centro della foto, quello io l'ho preso, ho fatto un danno, mi è successo il ritorno di RF, ho bruciato i finali, agli ubbugliato e l'ho mandato da Bianconi. Io ho tutta la documentazione, dico l'ha preso, l'ha cambiato i finali e me l'ha mandato 250 euro, 250 euro, il 450 questo qua, l'ho misurato a Bianconi, l'ICOM, il ricevitore, Bianconi, ed è tutto documentato, non è che ci sia, non c'è nessun inganno, c'è manuale di istruzioni, documentazione di revisione, cose, prova, tutto quanto, gli allenamenti, io ho tutti i documenti qua. Ecco, sì, io l'avevo chiamata Bianconi per 440, solo che mi ha dato dei consigli, mi ha dato tutto quanto, ma lei mi dice guarda, non stiamo più accettando lavoro perché sto chiudendo. La verità, sto finendo dei lavori che ho in corso, poi sto chiudendo tutto quanto. E invece da voi ha trovato la brisa. E lì me l'ho venduto, anche se sì, Bianconi me la fittava, io me l'avevo mandato, invece mi la sarrei. Sì, da poco l'ha mandato un amico anche a fare il coso, il Lucio. Anche a lui si è fatto lo schermo a puntini, l'ha mandato, ma in, se non sbaglio in due settimane gliel'ha fatto, però lo so cosa fa, se tu lo mandi di lì lui ti dà la garanzia, dice ma cosa, sì, ti dà la garanzia, perché io nella documentazione l'ho mandato con che mi ha aggiustato la radio, ha 2 anni di garanzia sul danno che lui ha riparato. Certo, è ovvio quello, no? No, a me mi aveva detto che ci voleva, per fare quel lavoro lì ci voleva 180 euro, più la spedizione. Esatto, 180 più spedizione, ti viene 220 euro in tutto. Esatto, tutti mi ha chiesto lui, cioè mi ha dato dei consigli, però non me l'ha accettata la radio, perché mi ha detto che ce ne stava chiudendo. Invece poi dopo un bel po' ho sentito, anzi non mi ricordo chi l'ho sentito, se era Paolo, chi era, no, che alcuni erano ripigliati. No, e deve essere abbinto, non le lasciava, quindi e tu dici a Budorra Zerranda, chi fa Budorra Butria, chi no, chi mi guidano tutto. Sicuramente, o magari sta lavorando dentro qualche magazzino e sta facendo dei lavori. No, ha ripreso proprio il negozio, E allora questa di tutti, poi va la missione. Sei la più sicura, No, stato, fa fattura, fa tutto, Non c'è da nascondere niente. La cosa bella però è che è onesto, ti cracca quello che vuoi, ti fa spendere soldi, però è una persona che è bravo a lavorare. No, sì, io lo so perché io tanti anni fa gli ho mandato un 680 perché si era bruciato i finali, si erano bruciati, e glielo ho mandato a lui, e me l'ha fatto bene, il lavoro me l'ha fatto bene. Ma scherzi. Boh, io qua non conosco nessuno che ne fa di questi lavori e al momento bisogna affidarci al casino, sono questi spedizioni. Sono stati 12 giorni per me l'incubo, se sapevo che c'era la radio in giro così. E comunque, alla Genoca. Queste spedizioni sono un casino perché trattano il tuo pacco a calci, non buttano la cosicina nella fuga alla terra e dai nato il fuori in terra e lasciano andare e non guardano se c'è roba delicata o no. E purtroppo siamo in mani giuri e come arriva lì. Sì, infatti, se ve l'avevano fatto in bagaglio invece i danni che fa via, mi forse è stata diversa la situazione. Va bene. una di questa stasera chiudo la trasmissione. Chiudo la trasmissione perché mi devo sistemare ancora il cane. E poi andiamo un po' a Nanna. E poi andiamo un po' a Nanna. Cioè arriva la Mazzano alle 4 in terra. Alle 4, non sono citato, alle 4 e un quarto ero in terra, in collina. Adesso così, finta là. E va bene, proviamo a recuperare stanotte se ci riusciamo fra. Dai, ti auguro una buona serata, Franco, cioè una buona serata, ormai è finita. Ti auguro una buona notte. E se coincide ci si sente alle prossime, io intanto domani pomeriggio già sono in radio. È accesa, quando volete entrare non ci sono problemi, fate un fischio. Buonanotte Franco, buonanotte a tutti gli esseri che ci sono qua in ascolto e ce la sentiamo alle prossime. Ciao, buonanotte. Ehi, ciao, grazie, dai.